Italia in controluce. Oggi è il 1 marzo 2010, Daniele Biacchessi in conduzione della prima edizione di Italia in controluce. In Sicilia li chiamerebbero cuntisti, nei paesi anglosassoni storyteller. Sono i cantastori, i narratori, quelli che spesso si sostituiscono al giornalismo, agli intellettuali e perfino alla politica. Perché un cantastorie narra vicende dimenticate, spesso non hanno avuto un esito processuale. Un cantastorie scuote le coscienze e soprattutto fa memoria. Oggi parliamo di Ulderico Pesce, lucano, attore, regista teatrale. Pesce è autore e interprete di numerosi monologhi portati in scena sui palchi dei principali teatri italiani. Quelle di Ulderico Pesce sono storie di ambiente negato e sono i luoghi del teatro civile dove nascono gli spettacoli di Pesce che ci hanno maggiormente interessato. Tu ti ricordi, papà? Ti ricordi quando io ho lavorato lì dentro, nel deposito nucleare, che fui assunto, operaio, addetto alle pulizie, scupavo in terra. Dentro il deposito, ricordo papà, e mio padre, come che non mi ricordo, amico, andai a piangere da un senatore per farti assumere a faticare come scopatore dentro il deposito nucleare. Luoghi ne ho trattati tanti e ne continuo a trattare, diciamo che quelli che mi rimangono di più nella memoria, per esempio in Italia, sono su uno spettacolo che dedico al pericolo nucleare relativo ai depositi, alle centrali atomiche dismesse in Italia, sicuramente sono Scanzano Ionico, dove il governo Berlusconi voleva impiantare nel 2003 il deposito unico di scorie nucleari italiane. Un altro luogo relativo al nucleare è Saluggia, dove c'è un deposito nucleare vicino Vercelli in grandissimo pericolo, con 3 tonnellate di rifiuto liquido radioattivo in 2 cisterne scadute a 50 metri dalla Dora Baltica, un affluente del Po, più una piscina con 53 barre di uranio radioattivo a 50 metri dalla Dora Baltica. Un altro luogo, il Trino Vercellese, Caorso, ma la stessa Latina, Borgo Sabotino, la Casaccia di Roma, pochi sanno che a 25 km a nord-est di Roma c'è un deposito nucleare che continua a gettare liquidi radioattivi costantemente nel torrente Arrone, con un reattore nucleare ancora in funzione che si chiama il Triga, dove si fanno esperimenti nucleari. Un altro luogo è Monte Cuccolino, una zona di Bologna dove c'è ancora là un reattore nucleare in funzione per studenti dell'università. Presero 84 barre di uranio radioattivo dagli Stati Uniti d'America e le portarono dentro questo centro nucleare dove era la zona agricola un tempo. Erano barre di uranio che avevano lavorato negli Stati Uniti d'America, erano barre che avevano faticato in un reattore nucleare che si chiamava Elk River, erano barre dell'America, tanto che se i barre potevano parlare dicevano that's all right. Erano proprio americani, giuro, americani di tutto e per tutto. Fa come amianto che faccio da qualche anno, i luoghi sono Casale Monferrato, descrivo le tragedie di Casale Monferrato, dove c'era la fabbrica Eternit, dove a fianco alla fabbrica, che è una cosa che è stata sottovalutata molto, c'è un canale, si chiama Canale Lanza, è un canale, il Po viene deviato e in questo canale, non tutto il Po, l'1% di acqua del Po viene deviato nel Canale Lanza, e questo Canale Lanza attraversa mezzo Piemonte e il canale passa a 5 metri dalla fabbrica di Eternit. Pertanto in questi anni, visto che la fabbrica è molto vecchia, chissà quante idee è stata ovviamente attiva fino al 1992, mi chiedo quante, ho fatto interviste per esempio addirittura a quello che apriva, cioè al cosiddetto guardiano del Po, un signore di 90 anni, che apriva le paratie per far entrare l'acqua del Po dentro il canale Lanza. Questa persona mi ha raccontato che il canale Lanza, quando la fabbrica Eternit di amianto, che lavorava l'amianto, era attiva, scaricava talmente tanti chili di amianto lavorato resti di amianto dentro questo torrente, che l'acqua del torrente cambiava colore, e questo torrente, poi questo canale, è stato fatto da Cavour e viene utilizzata tuttora quest'acqua a scopi per innaffiare i terreni di mezzo Piemonte. Un altro luogo è Monfalcone, dove c'è la Fincantieri, che fino al 92 coibendava le navi con l'amianto. Un altro è l'Ilva di Taranto. Ovviamente, come tu ben sai, caro Daniele, occupandoci di questi problemi e andando sul luogo a capire non solo i problemi come fanno i giornalisti, ma a capire le persone, per tentare di costruire una drammaturgia vera e propria con quelle persone, ecco, cioè raccontare quella gente, quali sono i rapporti nelle famiglie, tra gli amici, tra i parenti, storie d'amore, in questi meccanismi drammaturgici strutturati su contenuti terribili che riguardano l'ambiente o la malavita italiana, scopri le persone, le porti in scena, scopri i luoghi, i territori che in Italia siamo stati capaci di massacrare. Un altro spettacolo è Asso di Monnezza. È un po' ovviamente molto più esteso, perché i luoghi dove si specula e si fa ricchezza con l'uso illecito di rifiuti industriali e di rifiuti urbani sono tanti in Italia. Il nord e il sud è assolutamente equiparato, cioè i problemi stanno a Milano, dove proprio nella cintura, nel parco nord di Milano, l'anno scorso sono state trovate 103 discariche abusive, quindi... Cioè non è che il problema certo in Puglia ne sono state trovate 1000, però a Milano 103, e le infiltrazioni dei malavitosi della Monnezza stanno nel CEA. Tu pensa che a via Frigia numero 5 a Milano c'è stato, vicino a un asilo e a una scuola elementare, per tutta una vita un deposito di materiale radioattivo. Uno può mai pensare che in via Frigia numero 5 c'è un deposito su un terreno comunale, per giunta. Quindi i problemi sono ex aequo dalla Sicilia a Milano, non c'è un'Italia di serie A o di serie B. Daniele Biacchessi vi ha condotto nella cronaca In Italia in Controluce. Le puntate di questo programma sono tutte disponibili su www.radio24.it, il gruppo di Facebook per l'infoline Radio 24 Italia in Controluce, la mail controluce@radio24.it. A risentirci oggi in diretta alle 13.30.